capito. I fiori sopra i prati non fumare. No woman who cry. La donna d'altri non desiderare. Leitmotiv. Fatti non foste a viver come bruti. Uomini fatti dei. E strafottenti a fare due starnuti. Come stai? Come sto? Non lo sai? Non lo so. Cosa fai? Dove vai? Non si può. Che tutto l'oro del mondo non vale neanche un secondo. Sono, non lo so, so solo che ti amo.